Buonasera a tutti, mi auguro che ci state ascoltando. Abbiamo un piccolo problema tecnico questa sera. La nostra Rosanna sta facendo des mains et des pieds, come si dice in francese, per riuscire a sistemare il problema. Ma non posso farla tutta io questa trasmissione. Ora vediamo che cosa possiamo fare. Allora, intanto abbiamo con noi Vediamo, questa sera. ecco, ci sono. Ci sei? Mi sentite, no? Io non ti Io sento. mi sento. Non mi Sì, sentite? ci Ecco. siamo. D'accordo, Ok, perfetto. buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma. Mentre sono le 21:03 minuti e questa trasmissione ogni volta ci dà i brividi. I C'è sempre brividi. qualcosa che non funziona. Tutti i Però brividi del oggi mondo, c'era funziona. una canzone, no? Sì. Allora, dunque, buonasera, come dicevo sono le 21:03 del 30 marzo 2015 e io sono in compagnia di Anna Maria. E Rosanna. Buonasera Buonasera di nuovo. a E stasera abbiamo due ospiti. Allora, abbiamo la dottoressa Licia Jacoviello, che questa sera chiameremo Licia. Buonasera. Ciao Licia. Ciao, ciao. E abbiamo il professor Giovanni De Gaetano che chiameremo Giovanni, va bene? Buonasera. Allora, con questi due ospiti, diciamo, trascorreremo questa oretta più o meno fino alle 22, e il tema sarà stile mediterraneo, poi vediamo un po' di cosa si tratta. Allora, intanto, vogliamo ricordare che, andiamo in onda oggi 30 marzo, però lunedì prossimo, che è il 6 di aprile, lunedì di Pasqua, non andremo in onda, mentre torneranno in onda il 13 di aprile Tiziana, Leandro e Rossella. Quindi per una settimana, insomma, per una puntata non ci troverete e poi quindi riprenderemo regolarmente le nostre trasmissioni dei colori dell'anima ogni lunedì dalle 21 alle 22. Allora, cominciamo da Giovanni. Mediterraneo è bello? Possiamo dire così? Beh, Mediterraneo è antico e come tutte le cose antiche e piene di tradizioni sono anche belle. E in questo senso, e penso che stasera vogliamo parlare in modo particolare di un modo di vivere che definiamo Mediterraneo, che ha nella cosiddetta dieta mediterranea il suo perno, il suo centro principale, ma che non è soltanto un insieme di cibi, un elenco della spesa, è un modo di mangiare, un modo di bere, un modo di porsi a tavola con gli altri, senza fretta, con convivialità, che mi ha caratterizzato da sempre, dai tempi dell'Odissea e dell'Iliade, il modo con cui i popoli che si affacciano sul mar Mediterraneo consumavano i loro pasti. Non è un modo di nutrirsi, è un modo di vivere, è un modo di fare cultura e più recentemente è anche un modo di fare salute. Ma c'è anche qualcosa di moderno in questo Mediterraneo? Beh, di moderno c'è la soluzione, la decisione dell'UNESCO di riconoscere la dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell'umanità. Non si tratta di un monumento, non si tratta di una statua o di un reperto archeologico, si tratta appunto, come dicevamo prima, di un modo di rapportarsi con se stessi e con gli altri, attraverso l'alimentazione, attraverso quindi il contatto con la terra, con gli alimenti, con le stagioni, con gli animali. Tutto quello che riguarda questo aspetto che ha sempre accompagnato la vita dell'uomo. Allora, quindi tra l'antico e il moderno, ti viene in mente un colore che si può associare allo stile mediterraneo? Ma non verde, azzurro, giallo, rosso, un colore un po' più definito, o anzi, meno definito. La dieta mediterranea è un insieme di colori, quindi sarebbe bianco perché è l'insieme di tutti i Ho colori, capito. proprio perché è caratterizzata da sostanze chimiche che chiamiamo polifenoli. I polifenoli sono colorati. Il vino è rosso perché è pieno di polifenoli. Le arance sono arancioni o sono rosse come le arance di Sicilia, perché sono ricche di particolari polifenoli che danno questo colore. E quindi possiamo dire che la vostra trasmissione si chiama Tutti i colori dell'anima, ma noi possiamo dire Tutti i colori della dieta mediterranea. Va bene, quindi tutti i colori o uguale bianco? Bianco, certo. Va bene. Allora, Licia, stile mediterraneo, perché appunto al di là della dieta di cui si parla, della dieta mediterranea di cui si parla dagli anni 60, c'è anche un modo di vivere che è proprio dei paesi del Mediterraneo. E quali sono gli elementi di questo modo di vivere che accompagnano o non accompagnano eventualmente la dieta? Il modo di vivere che sicuramente accompagna la dieta e la socialità. Mangiare non è un fatto nutrizionale, puramente nutrizionale, cioè si mangia per alimentarsi, ma si mangia in un contesto di condivisione, e in questo contesto di condivisione gli alimenti assumono un valore particolare. Facciamo come esempio il bere, per esempio il bere moderato, in particolare il bere il vino rosso in maniera moderata, che fa parte della dieta mediterranea e che è sicuramente ormai dimostrato come un fattore di protezione non solo per le malattie cardiovascolari ma anche per la mortalità in genere. Allora, cosa però distingue il bere? Si beve in tutti i paesi, non si beve, anzi forse si beve di più in paesi nord europei o americani, ma è proprio la maniera conviviale del bere durante i pasti insieme alle altre persone che fa di quella quantità di alcol un fattore di protezione piuttosto che un fattore di rischio. E anche la tradizione che tramanda il bere da padre in figlio come un'espressione di cultura, fare il vino, accompagnare il vino ai pasti, trasmetterlo dai nonni ai nipoti, fa sì che poi da adulti non si diventi alcolisti o alcolizzati, che si continui a bere durante i pasti in maniera moderata e che non si applichi quello che noi chiamiamo binge drinking, cioè l'ubriacatura del venerdì sera. Non si beve tutta la settimana e poi si beve tutto l'alcol insieme in una sola volta weekend, fuori dai pasti nel weekend, con l'unico scopo di ubriacarsi, che non ha nessun senso di socializzazione, ma anzi di separazione, perché si beve nei pub dove c'è il rumore, dove non si comunica, e alla fine ci si ubriaca senza avere nessuna possibilità di comunicare agli altri. Invece nella tradizione mediterranea si beve a tavola, si beve ai pasti in maniera moderata, accompagnando con una socialità, con la comunicazione, con l'espressione della famiglia quello che è il consumo di alcol, che come tale potrebbe essere invece molto più sterile come concetto. Allora, c'era un mio collega che diceva: la dieta mediterranea, ma quelli erano dei poveretti che non avevano niente da mangiare, quindi la dieta mediterranea era che mangiavano poco. È vero, Giovanni? Sì, questo è vero, ma prima di rispondere alla domanda di Rosanna vorrei ricordare che quello che è stato detto adesso da Licia è già descritto quasi 30 secoli fa nell'Odissea. Polifemo era un gigante grande e grosso, ma viveva da solo e non sapeva bere. Tant'è vero che un piccolo uomo greco come Ulisse è riuscito a vincerlo, proprio perché Ulisse sapeva bere e Polifemo no. E Polifemo si è ubriacato, non era abituato alla socialità. Quando sono entrati i greci nella sua spelonca, non li ha trattati da amici. Se li avesse fatti sedere a tavola avrebbe avuto un sacco di doni e avrebbe avuto tanti vantaggi. dalla presenza di Ulisse e dei suoi compagni. Invece il fatto che non sapesse bere, e i greci consideravano barbari coloro che non sapevano bere il vino, e quindi la cultura del bere moderato è vecchia quanto la nostra civiltà. E detto questo, è vero che la dieta mediterranea, così come l'abbiamo ereditata e come la consideriamo oggi, era essenzialmente la dieta dei contadini, diciamo dell'immediato dopoguerra, soprattutto a base di vegetali, poca carne rossa se non nei giorni di festa, pochi dolci, ancora una volta riservati alle occasioni speciali, vino in moderazione durante i pasti, legumi, cereali, pane nero. Era la dieta dei poveri, che era accompagnata da una grande attività fisica. Non c'erano le automobili, non c'erano gli ascensori, la gente andava a lavorare a piedi, andava, saliva e scendeva le scale di casa a piedi, e questo fa parte integrante dell'alimentazione mediterranea. Se uno mangiasse il meglio della dieta mediterranea e stesse tutto il giorno seduto davanti alla televisione, non avremmo fatto nessun passo avanti e non avremmo probabilmente nessun vantaggio di quelli che la dieta mediterranea può portare alla nostra salute. Apriamo un dibattito. Lucia, non sei d'accordo, dai. Vedo gesti. No, sono d'accordo da un punto di vista culturale, però facciamo un salto a quello che è la scienza della dieta mediterranea. È quello che è forse una delle modernità della dieta mediterranea, chiaramente per dire che la dieta mediterranea è un fattore che aiuta la salute. Dobbiamo uscire un po' dal contesto, come dire, della tradizione, andare al contesto scientifico, cioè ci sono delle prove scientifiche che dicono che la dieta mediterranea fa bene, e gli studi che sono stati condotti oggi, dove non c'è più la povertà legata alla dieta mediterranea, ma c'è un consumo di prodotti in una certa associazione, ci dice che ancora mangiare mediterraneo è un fattore di protezione per le malattie cardiovascolari, per i tumori, per le malattie neurodegenerative, quindi un po' per tutte le malattie, inclusa la morte. E questo indipendentemente da tutti i possibili altri fattori che possono essere di protezione. Quindi la dieta mediterranea è un fattore di protezione anche se non si fa attività fisica. Chiaramente, se noi però vogliamo inserire queste informazioni scientifiche in un contesto culturale e sociale, non possiamo guardarla in maniera isolata. E sicuramente se noi associamo alla dieta mediterranea un'attività fisica continua, costante, otteniamo una protezione ancora maggiore di quella che avremmo avuto con la sola dieta mediterranea. Quindi si sommano e magari forse l'effetto è anche maggiore, diciamo, moltiplicatore. Si moltiplicano, sì, esatto. Però ecco, rimaniamo magari, prima di mandare un altro brano musicale, con il vino. Volevo chiedere ad Anna Maria, che ha una figlia giovane, che ha un ragazzo, ma li bevono il vino questi ragazzi? Poco. Non è di moda? O è di moda? No. Secondo me si è perso un pochino quello che era il bicchiere di vino a tavolo, perlomeno quello che mia figlia non ha mai toccato un bicchiere di vino in vita sua. Ah, ecco, vabbè. Quindi. Ma perché non le piace, non perché... Non lo non bevono meno, molto meno. Il vino. Il vino in generale. Ora, quello che succede anche da noi è l'ubriacatura del sabato sera, spesso e volentieri. Nelle generazioni che ci sono adesso si tende un pochino ad uniformarsi al resto dell'Europa, diciamo così, e c'è un pochino questa cultura diversa. Quindi insomma si sta perdendo la mediterraneità, forse. Ma non, io non direi che si perde la mediterraneità, diciamo che più o meno ci si uniforma un pochino di più con il resto, un po' per il nuovo modo di vivere, la globalizzazione che va tanto di moda adesso. Sì. Certo. Ci si uniforma un po'. Poi va bene, nel caso magari di mia figlia c'è anche il discorso che lei ha viaggiato molto, che spesso viene qui, quindi anche altri esempi. Noi per esempio a casa sì, la cucina italiana la conosciamo, ma mischiamo anche altri tipi di cucina, apprezziamo anche altri tipi di cucina. Vabbè, certo, senza togliere nulla a quello che sono invece le nostre tradizioni a casa. Certo. Cioè, io non riuscirei mai a portare mia mamma a mangiare il cinese, cioè, parliamoci chiaro. A casa mio papà e mia mamma sempre la bottiglia del vino, ogni pasto, sì. Va bene, allora io proporrei una piccola interruzione musicale, ci ritroviamo fra poco, mi raccomando rimanete con noi, con I Colori dell'Anima, e a fra pochi minuti. Eccoci qua, dopo questa bella canzone di Sanremo 2015. Allora, io volevo un attimino fare gli auguri a una signora, perché mi voglio collegare al discorso di Licia, che diceva appunto che la dieta mediterranea fa bene alla salute, fa bene all'aspetto sociale. Allora, questa signora compie oggi 100 anni. Allora, questa si chiama, Teresa Calonaci in Luciani, è nata nel 1915, il 30 marzo del 1915, vive a Livorno, è la nonna di una mia carissima amica, allora ci tenevo in modo particolare. Sì, certo. E questa è la prova. Prova che mangiando bene, vivendo bene con certi all'aria criteri, aperta, si magari può vivere a lungo e in buona salute, perché questa signora è anche in buona salute. Bene, auguri signora Teresa. Auguri. Allora, quindi lo stile di vita. Volevo sapere da Licia, gli studi che avete fatto voi riguardano anche lo stile di vita o soltanto il modo in cui mangiano le persone? Ma gli studi che noi facciamo riguardano principalmente il modo in cui mangiano, non i singoli alimenti. Ecco, questo è un approccio nuovo che non tende più a vedere se mangiare un nutriente, per esempio le proteine, piuttosto che i carboidrati, piuttosto che le vitamine o gli antiossidanti, o un singolo cibo, la carne rossa verso l'olio d'oliva, ma il modo complesso di mangiare. Che viene valutato attraverso degli score o dei pattern, cioè il modo in cui i cibi si associano insieme, vengono associati insieme dalle persone, viene studiato come un fattore di protezione o di rischio nei confronti delle diverse malattie. Però a questo associamo anche lo studio di altri fattori che possono essere di rischio di protezione, come per esempio l'attività fisica, l'abitudine al fumo, e diciamo più recentemente ci stiamo interessando di come il contesto socio-economico in cui le persone vivono possa essere un fattore che di per sé mette a rischio di malattia o interagisce con l'alimentazione nei confronti del rischio delle malattie. E in effetti sembra banale dirlo, forse poco riconosciuto, ma lo stato socio-economico, inteso sia come proprio livello economico, guadagno delle persone, che come livello di acquisizione culturale, quindi scolarizzazione delle persone, è il maggiore determinante sia delle malattie, ma anche dei comportamenti che portano a proteggerci dalle malattie. E quindi anche un comportamento come quello o alimentare, cioè nutrirsi in un certo modo, ed in particolare aderire più o meno alla dieta mediterranea, è condizionato dallo stato socio-economico, dal livello di cultura delle persone, ma soprattutto da quanto le persone guadagnano. Io volevo chiedere una cosa. Oggi, ieri per esempio, ho incontrato una persona e mi dice: io sono vegana. E poi io sono vegetariana, mi lasciano un po' perplessa. Io invece sono una a cui piace mangiare, mi piace mangiare più o meno tutto. Quindi mi domando, queste diete così drastiche, per talvolta sono addirittura, ho l'impressione che siano drastiche, ma fanno bene? Perché queste persone sono seriamente convinte di star facendo la cosa giusta e poi ti guardano nel piatto quello che stai mangiando. Qualche volta mi sento anche a disagio, dico la verità. Sì, come tante cose vanno viste da diverse prospettive. Assolutamente. Allora, andiamo fuori un po' dal comeinismo dell'alimentazione, cioè quell'essere così determinati a eliminare alcuni cibi. Parliamo prima di tutto dei vegetariani. Ecco, parliamone. Io devo ammettere un conflitto di interesse perché sono vegetariana. Ma okay. No, io non riesco a capire, sono... perché a me piace mangiare, per cui per me è inconcepibile dover eliminare mangiare, solo che scelgono determinati cibi. Allora, se parliamo di un'attitudine al vegetarianismo, cioè usare più prodotti di tipo vegetale rispetto a prodotti di tipo animale, fa bene. Fa bene, ok. Fa bene. Perché il consumo delle carni, in particolare delle carni rosse e delle carni processate, insaccate in particolare, è associato ad un rischio aumentato di tutte le malattie, praticamente. Quindi, di contro, l'uso di prodotti vegetali, di grassi di tipo vegetale come l'olio d'oliva, di frutta, di verdura, è invece associato a una protezione dal rischio delle malattie cardiovascolari. Eccezione a questo contrasto fra prodotti animali e prodotti vegetali lo fa il pesce, perché il pesce, in particolare il pesce azzurro, è ricco di acidi grassi cosiddetti omega 3, che sono sempre dei grassi, ma sono dei grassi buoni, cioè dei grassi che proteggono, che fanno bene. Tant'è vero che uno dei farmaci che noi utilizziamo, per esempio contro le aritmie cardiache, nella prevenzione delle aritmie dopo un infarto, oggi è proprio un estratto di oli di pesce, chiaramente reso farmaco, che si chiama omega 3. Quindi diciamo che globalmente il vegetarianesimo è associato ad un rischio più basso di malattie, però anche mangiare un prodotto animale, ma non si pesce, rischiano delle carenze a non mangiare affatto? No, se si mangia in maniera equilibrata, perché chiaramente si può essere vegetariani. Il veganesimo è già un'estremizzazione, per i quali ancora non ci sono dei dati definitivi. Ci sono pochi dati che indicano una protezione, però diciamo i vegani sono delle persone un po' particolari, nel senso che quando uno decide di essere vegano, in generale appartiene anche ad una categoria di persone un po' particolare. Sono persone molto attente alla salute, sono persone che praticano spesso anche per esempio la meditazione, quindi è difficile staccare l'effetto dovuto all'alimentazione da quello dovuto ad altri fattori. Dobbiamo dire la verità che essere vegani è estremamente difficile, per cui la percentuale di vegani che rimane vegana di più per più di 6 mesi è inferiore al 5%. Quindi in questo senso è molto più difficile studiarli. Ecco. Quindi io direi che anche a questo tipo di attitudine alimentare va usato il termine della moderazione. Il vegetarianesimo è un po' principio, ridurre i prodotti di ordine di tipo animale è una buona pratica per la salute, probabilmente estremizzare queste pratiche è un po' meno. Gli estremi non sono mai. Poi che uno sia vegano e assuma un atteggiamento accusatorio, è come quello che non fuma, che assume un atteggiamento accusatorio nei confronti di chi fuma, probabilmente non è una cosa piacevole. Invece volevo un attimo venire al discorso della dieta mediterranea ai tempi della crisi. Un paio di anni fa sei venuto tu, Giovanni, con Maria Laura Bonaccio, che è l'altra autrice di questo libro, a presentare questo libro appunto qui a Bruxelles al Piola Libri, e volevo sapere intanto se è cambiato qualcosa da 2 anni. Se questo libro rimane sempre attuale per come è stato scritto 3 anni fa, se uno dovesse immaginarsi di scrivere un altro libro, quale sarebbe un altro titolo? Il libro resta sostanzialmente attuale, anzi diciamo che le tesi che si presentavano in quel libro sono sostenute adesso da dati recenti del nostro centro di ricerca Neuromed in Molise. Noi stiamo conducendo uno studio su 25.000 persone che abitano nella nostra regione. Lo studio si chiama Moli Sani, si scrive con un trattino tra Moli e Sani per sottolineare l'importanza della salute rispetto e della prevenzione rispetto alle malattie. Abbiamo cominciato questo studio nel 2005 e ogni anno abbiamo visto circa 5.000 persone, e quindi abbiamo terminato nel 2010, 5 anni dopo. Ci siamo accorti durante il periodo 2005-2010 che man mano che passavano i mesi l'adesione delle persone alla dieta mediterranea diminuiva. Da questa sensazione, questa impressione, abbiamo poi analizzato i dati attentamente e abbiamo visto con molta chiarezza che le persone dal 2005 al 2007 aderivano alla dieta mediterranea in una maniera significativamente più importante di quanto non abbiano poi fatto coloro che sono entrati nello studio dopo che è cominciata la crisi. Si ritiene così convenzionalmente che il culmine della crisi sia stato attorno al 2007, gli inizi del 2008. Quindi prima della crisi c'era un'adesione soddisfacente alla dieta mediterranea anche in una regione abbastanza omogenea e piccola come il Molise. Dalla crisi in poi, quindi dal 2008, 2009, 2010, c'è stato un progressivo allontanamento da questa sana abitudine di vita e alimentare. Non è soltanto un problema così di abitudine o di cambiamento di stile, è proprio il fatto che non riteniamo che sia sempre più difficile, per esempio per una famiglia di 4 persone, poter seguire tutti i dettami della dieta mediterranea. Oggi mangiare la quantità di frutta e verdura che la dieta mediterranea consiglia in una famiglia di 2 adulti e 2 ragazze comporta un costo che purtroppo, con la disoccupazione, con il precariato, con la crisi che ancora non si è risolta, sempre meno famiglie si possono permettere, e quindi ci si rifugia in cibi che soddisfano di più, che si preparano con meno impegno, anche con più rapidamente, e che però non apportano all'organismo i vantaggi della dieta mediterranea. E quindi, soprattutto per i nostri giovani, la crisi non sta dando dei problemi adesso, ma li darà anche negli anni a venire, quando i ragazzi che oggi mangiano quello che si chiama il cibo spazzatura o il junk food degli anglosassoni diventeranno adulti. Già molti di loro sono obesi o in sovrappeso. In uno studio organizzato dalla nostra amica Alicia, uno studio europeo che ha coinvolto adolescenti, bambini di 10 paesi europei, abbiamo riscontrato un record italiano che certamente non ci fa onore. Abbiamo i bambini più obesi dell'Europa. A noi magari può anche piacere, qualche mamma avrà anche soddisfazione a vedere quanto è bello Paccioccone o figlio suo, ma non è questo un criterio di salute. E il bambino che oggi è obeso molto probabilmente sarà iperteso, un domani sarà diabetico, si ammalerà più facilmente di malattie cardiovascolari, di tumori. E quindi non possiamo rimanere inerti davanti a questa prospettiva. Sappiamo che c'è la crisi, bisognerebbe che le autorità sanitarie, gli ordini dei medici, le università prendessero posizione giornalmente, con programmi, con insistenza, con divulgazione su questo problema estremamente serio e grave per il nostro paese. è importante poter coinvolgere soprattutto la responsabilità, e per questo noi facciamo anche molto lavoro con le scuole. Addirittura in alcune scuole di Campobasso, nel Molise, abbiamo insegnato ai ragazzi a fare ricerca sull'alimentazione, in modo che non siano sempre gli adulti a dire cosa si deve fare, cosa non si deve fare, cosa devono mangiare, non devono mangiare, ma i ragazzi piano piano si sono resi conto loro stessi, studiando, partecipando a una serie di iniziative, che per esempio mangiare più vegetali, più verdure, quindi seguire un po' quello che diceva Alicia prima, abbondare negli aspetti vegetali dell'alimentazione, portava dei vantaggi, anche in tempi relativamente brevi, per esempio sul peso corporeo. E la cosa bella è che abbiamo utilizzato dei mezzi relativamente nuovi, cioè i ragazzi mandavano ad altri ragazzi che partecipavano allo studio dei messaggi sul telefonino, quindi degli SMS utilizzati non per scrivere 4K di seguito, ma per invogliare, per incoraggiare gli amici, i coetanei, a mangiare più frutta e più verdura. E questo sistema, soprattutto tra le ragazze, ha funzionato molto bene. Quindi bisognerebbe far funzionare anche la fantasia con i nostri giovani nelle nostre scuole e diffondere l'idea che una buona salute, adesso che sono giovani, proteggerà milioni e milioni di nostri ragazzi da una serie di problemi fra 10, 20, 30 anni. Ecco, volevo chiedere, proprio perché parliamo dei ragazzi e quindi di un modo di comunicare che appunto al giorno d'oggi si fa soltanto attraverso i telefonini, di esempi come questo, cioè di mandare gli SMS o magari, che ne so, WhatsApp o altro, forse WhatsApp è già antico, non lo so, ma speriamo di no, l'abbiamo scoperto noi adesso. Almeno sì, l'abbiamo scoperto adesso e ne facciamo grande uso, però magari per i ragazzi quindicenni è già antico. Comunque, a parte questo esempio, ci sono, Giovanni, ci sono altri di casi di questo tipo, cioè di studi fatti, che ne so, attraverso Facebook, per fare arrivare messaggi ai ragazzi o no? Sì, al recente convegno della società Associazione Americana del Cuore, l'American Heart Association, che si è tenuto a Baltimore qualche settimana fa, siamo stati impressionati dal numero di comunicazioni riguardanti proprio questo nuovo aspetto di comunicazione, di informazione della popolazione. Quindi non più le campagne con manifesti o con le lezioni tradizionali, ma l'utilizzo di computer, di social networks e di metodologie che fino a qualche tempo fa erano considerate completamente strane alla ricerca e al mondo della salute, e che invece stanno trovando un impiego che non è ancora ben documentato, perché siamo appena agli inizi, ma che può essere promettente e che quindi va incoraggiato e va sviluppato. Va bene, allora io proporrei ancora un piccolo brano musicale, questa volta in francese, in onore di Anna Maria. Me lo concedi? Allora, chi ci vuoi fare ascoltare, Anna Maria? Io ho portato della musica di Florent Pagny, è in francese chiaramente. C'è una canzone che mi piace in modo particolare, che si chiama Les Murs Porteurs, che lui canta con Calogero. Sì. Sei preparata? Ho letto. Caspita. Calogero sembra proprio un nome francese, vero? Sì, assolutamente. Va bene, allora te la abbono proprio perché c'è Calogero, perché c'è Calogero, che c'è un nome italiano. Vabbè, canta in francese anche lui, ovviamente. Ci ritroviamo fra pochi minuti. Mi raccomando, rimanete con I Colori dell'Anima. Ed eccoci ritornati alla nostra chiacchierata finale della trasmissione di oggi dei Colori dell'Anima, mentre sono le 21:45, quindi restano ancora una decina di minuti per così per le conclusioni. Allora, io ho voluto, anche se abbiamo parlato molto di alimentazione nel corso della trasmissione con i nostri ospiti Giovanni e Licia, ho pensato che questa trasmissione si dovrebbe chiamare Stile Mediterraneo e non Dieta Mediterranea, perché la parola dieta mi fa venire fame. Appena sento dieta, immediatamente. Meno male che non sono sola. Non so, ma mi viene proprio una fame immediata. Quindi non la tollero questa parola. Perché dieta? Perché è la traduzione in italiano del Mediterranean Diet. E siccome gli americani hanno scoperto la dieta mediterranea, noi l'abbiamo inventata, ma loro l'hanno scoperta, e loro c'avevano l'America e noi l'abbiamo scoperta, ed è successo il contrario, che noi c'avevamo la dieta mediterranea e però non lo sapevamo che c'avevamo la dieta mediterranea. È venuto un medico insieme agli alleati, alle armate statunitensi della Seconda Guerra Mondiale, è arrivato a Napoli, e a Napoli si è accorto che la gente stava molto meglio in salute di quanto non fossero le persone negli Stati Uniti. E indagando e cercando, anche con l'aiuto di colleghi napoletani, questo professor Kiss ha elaborato proprio la teoria, il concetto, l'idea della dieta mediterranea, ma naturalmente l'ha chiamata in inglese e noi la traduciamo. Sarebbe molto meglio dire alimentazione mediterranea oppure stile di vita mediterraneo. In rapporto alla signora che oggi celebra 100 anni, anche Ansel Keys ha raggiunto un'età molto ragguardevole, ha superato i 100 anni, quindi seguire la dieta mediterranea fa veramente bene. Insomma, dovremmo però appunto seguirla, perché come avete visto anche voi nello studio dei Molisani, questa dieta mediterranea si è andata perdendo addirittura mentre voi osservavate queste persone, quindi basta poco per perdere magari dei valori o dei modi di vivere che sono consolidati da tanto, non ci vuole niente. Quindi con la crisi, appunto, come possiamo fare per recuperare lo stile mediterraneo? Cosa dobbiamo fare? Beh, la prima cosa è rendersi consapevoli del problema e quindi cercare di introdurre alcuni correttivi. Un nostro amico medico di Licia e mio usa dire che il problema della salute non è un problema del Ministero della Sanità o del Ministero della Salute, e cioè è tutta la società che deve prendere consapevolezza di questo problema. E quindi, per esempio, si può abbassare l'IVA su certi prodotti alimentari, facilitare il consumo rendendo più accessibile l'acquisto di questi prodotti, ma poi per gli stili di vita più generali si può rendere l'accesso alle strutture sportive più facile, più economico, si può incentivare la sicurezza delle strade. Delle volte camminare per le strade italiane tra buche, pozzanghere e escrementi di cani e di animali è difficile consigliare quello che sarebbe una pratica molto utile, di camminare a passo sostenuto almeno mezz'ora al giorno. Ci sono molte città in cui questo cammino tranquillo ma sostenuto per mezz'ora al giorno non si può fare, non ci sono i marciapiedi, bisogna interrompere continuamente perché si attraversano passaggi automobilistici e quindi delle volte ci vorrebbe veramente poco per fare delle piste per le biciclette o anche per le passeggiate. Lungo la costa adriatica, dove noi abbiamo vissuto per tanti anni nell'istituto che si chiamava Mario Negri Sud, passava la ferrovia proprio sul mare, tant'è vero che molte volte con una mareggiata un pezzo di massicciata saltava. Adesso negli anni scorsi la ferrovia si è stata arretrata, quindi non è più sul mare, è meno bello naturalmente, però è molto più tranquillo. È rimasto uno spazio che era occupato dai binari, sono forse 50, 80, ma forse anche di più, 80 chilometri che potrebbero essere lungo il mare da Pescara a Vasto, diventare una pista ciclabile, diventare un luogo dove si corre tranquillamente senza la paura che ci siano macchine o camion eccetera. Sono diversi anni che la ferrovia è stata spostata, ma non succede niente finora. Ci sono sassi e probabilmente ogni comune farà una piccola cosetta, magari ci costruiscono sopra. Ed sono queste le cose che un governo attento alla salute dei propri cittadini dovrebbe pensare. Allora, siamo praticamente alla fine, però volevo fare un'ultima domanda a Licia sul movimento, perché appunto abbiamo parlato che il movimento, il muoversi, attività fisica, se si aggiunge alla dieta mediterranea è un fattore moltiplicatore, ma è meglio andare in palestra o è meglio passeggiare? Non c'è un meglio, penso che siano entrambe delle pratiche salutari. Il messaggio è: non è necessario andare in palestra. No, il messaggio è che cosa è più semplice e meno faticoso. È più semplice passeggiare, diciamo, nel senso che fare attività fisica significa muoversi, non importa dove ci si muove, quindi una passeggiata probabilmente è molto più proponibile, soprattutto ad alcune fasce di età e ad alcune fasce diciamo sociali, nel senso che non tutti hanno il tempo e la voglia di poter andare in palestra, non tutti hanno i soldi per poter andare in palestra. Io preferirei passare il messaggio che basta camminare a passo veloce mezz'ora al giorno, quello sarebbe l'ideale, e se proprio non si può uscire perché il tempo è cattivo, perché la salute non lo permette, comprare una cyclette e fare 30 minuti di cyclette in maniera diciamo senza faticarsi. Questo va bene. Magari davanti alla TV, così il tempo passa. Beh, magari anche davanti alla TV. Devo dire che io preferirei magari farlo con la finestra aperta, guardando fuori. Ti assicuro fuori. Che qui a Bruxelles meglio non guardare è meglio fuori. Non guardare allora davanti alla TV. Guarda, mettiamo un bel paesaggio nella TV e facciamo così. Il messaggio è che questo va bene a qualsiasi età, cioè non c'è un'età in cui si deve smettere di fare l'attività fisica. Attività fisica è anche andare a ballare. E questo ci piace. Attività fisica è anche fare giardinaggio, attività fisica è anche salire le scale, quindi tutto ciò che è movimento è attività fisica e fa bene alla salute. Quindi non pensiamo di non poter accedere a questo beneficio perché non possiamo andare in palestra. Giusto. Tra le altre giusto, cose anche la palestra va distinta, perché una palestra che è fatta solo, per esempio, di pesi, quindi senza nessuna attività aerobica, non ha lo stesso effetto sul metabolismo di un'attività aerobica. Quindi preferire il muoversi, quindi certo. Correre, camminare, fare la ginnastica, piuttosto che semplicemente alzare dei pesi, che ci fanno sicuramente gonfiare i muscoli, magari migliorare il nostro aspetto caso. Fisico, ma non ce l'abbiamo proprio, questo problema. E soprattutto questo non è proponibile a tutte le persone, esatto. Mentre appunto passeggiare penso che sia una cosa che faccia bene non soltanto al metabolismo ma anche allo spirito. È vero, confermo. E aiuta come la dieta a socializzare. Va bene, allora io ringrazio Licia, la dottoressa Licia Iacoviello, grazie. Grazie a te. Grazie, sei venuta anche altre volte, quindi grazie, spero che tu possa tornare altre volte ancora. È sempre un piacere stare con voi, quindi sicuramente. Grazie. Poi ringrazio Giovanni, il professor Giovanni De Gaetano. Sì, grazie a voi. A buonasera a tutti gli ascoltatori della Radio Alma. Grazie e naturalmente grazie ad Anna Maria, che dire? Grazie a te Rosanna. E noi ci ritroveremo non in aprile, io e te, ma torneremo a inizio maggio, sì, con una nuova trasmissione dei Colori dell'Anima, però appunto tranne il 6 aprile, ogni lunedì di aprile ci sarà una trasmissione. E sì, mi suggeriscono di dirvi buona Pasqua, certo. Buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Grazie, buona serata.